73-51 dal nord della Sardegna, io. Governatore Antonio Falchetto, che dalla città di Sassari ti ha salutato e ti cordializza, dai, cambio passo. Zappa, Pinuccio, dai, la cosa è bella qua. Pinuccio Radio Sardegna, dai. Pinuccio Radio Sardegna, qua tutto K di Royer, dai. La cosa è bella. La cosa è bella e positiva se ascolti qua Falchetto dalla città di Sassari. Ben ascoltato, 73-51 per la premiera, dai. Buona domenica e buon tutto, dai. Gli rilancio la paletta, cambio. A Pamonello, sud della Grecia, dai. Mi scuso per la interpretazione sbagliata, dai. Qua Antonio Falchetto dalla città di Sassari, modulante dall'isola bagnata della Sardegna, dai. Tutto città di Sassari, se mi vai copiando col 7-3 la stretta di paletta, cambio VAS. Quello che io mangio signorito, l'ho visto, buongiorno, ben ascoltato, ben alzato, Dio Claudio, ben alzato e ben ascoltato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, perché no, stavo facendo una cosettina qua niente particolare. Ah, allora già di tu, perché dal BP, scusami se mi sono comportato un po' maluccio, sempre come rispetto alla persona che ci sta dietro al microfono, no? Ma no, ricordo i denti. Oh, mi riferisco al BP, capisci a me, al BP. Thank you. Susa che sono rubigliene e smicciole, dal primo alla seconda. Mamma mia, come sto, non tocca snuda, e anda bene cai. Mamma mia, fa paura. Ma se va bene, lo lasciamo, vai. positivo. E questo mi ha attaccato, questo ci ha attaccato, guarda, così ha attaccato, guarda il segnale già, così ha attaccato, e così è staccato, guarda a vedere, ma funziona. Ecco. Avanti Falche. Allora lasciamo attaccato già. La radio non cambia, no Gianni, aspetta Falche, non cambia la radio, no, quando l'attacco, quando lo stacco. E ti sto dicendo, la radio di emissione radio, da attaccato a staccato, diventa satura, cambia o è sempre uguale? Non di più, dai. Allora, diceva che era giubbo aristocrat, e quindi io sono convinto di un giubbo aristocrat. Questo invece è un giubbo della CTE, e due valvole, neanche tre, è un giubbo della CTE, due valvole, capite? Però fa molto meglio del VV131, dai. Senti, con quella radio mi dici se va bene, se è satura, non è satura, se va bene. Ma ce l'avevi spenta ancora la radio, aspetto di accenderla sempre un po'. Quel coso lì, come si chiama? Quell'affare. giungo. Aspetta che l'ho appena lì, ecco. Ora, 1, 2, 3, 4, prova radio. Ecco qua. E praticamente sembra che vada bene, dai. È positivo, là. No, io mi stavo parlando un'antenna con Luigi, capito? Mi abbiamo finito le sciarezze, abbiamo cambiato lo stile perché il suo non andava bene. Dove controllo qua, il movimento qua con la magnetica 1-1 di stazionaria, qua in discesa in ottava, capito? Santiago 9, sì, qua Massimiliano. Santiago 9, Radio 5, non ci stanno problemi. Tutto K di Roger. A me come mi ascolti bene? Positivo. Santiago 9-10, Radio 5, perfetto. Ascolta, adesso lo stacco invece, guarda, così è attaccato e così è staccato, cosa cambia? Cambia che sei sceso in questo limite, va bene, sono in movimento, sei sceso a 5. Roger, va bene, hai visto, già funziona questo, eccolo qua. Certo, nuovo, ciao, devo dire nuovo, praticamente mai stato aperto, nuovo. Va bene, ma funziona tutto bene. Che funziona bene, 200 watt, il picco massimo di modulazione, c'è il amplificatore d'antenna, va bene, questa è la seconda potenza e questa è la prima potenza, è il volo ritarato, vedi che sacco, invece io ho ritarato la prima potenza, la seconda potenza, lo lasciamo stare così, avanti Gianni, lo senti a Massimiliano? Non so se mi ascolti qua, è mezzo una via alberata solo, capito? Proprio in una posizione un po' strana, dai. Signor. uno solo, ne volevo fare un altro, ma no. Non è via tempo di tanto, già va bene uno. Come sta, come lo sapete, ti porto da un amico. Ehi, hey, dai, no, ho attaccato, adesso ho attaccato il link, Gianni, mi senti adesso Gianni? Ti ascolto perché mi sono messo il cuore, vieni, vieni. Comunque io che lo sento, cioè, è la cosa che mi rompe le palle, non so quanti, con quanti volte sta andando lui, che lui arriva, riesco a tirarlo fuori, comprensibile, ma sono una valenza di 2 o un segnale di 7. Ma glielo arrivi io, è strano, boh. Ma ti ho detto che arrivi, non è che non arrivi, non lui. Arrivi. Arrivi, capito? Già arrivi. Ma sono arrivi. Ha una posizione... Non è nato in alto, mi già. È già troppo che ascolta Sassa, Riccardo. C'è gente, non arrivi, non arrivi, non arrivi. Accordato, mi interessa se cala il segnale da questa posizione, a questa posizione. E cosa ha cambiato? Si è cambiato la radio. Lo ricordo, avevo visto male, ma scusa, riprovo. Allora, da questa posizione, 1, 2, 3, a questa posizione, cosa cambia? Poco, sai, là. E la radio rimane variata? Poco, ma già è comprensibile, dai. Invece così, come mi hai detto, tutto va bene, secondo la potenza. Così la radio va bene. Dunque ti sento più, meglio dei canali bassi, bu. Sicuramente vuole accordarti, ma non avevo disposto, vuole accordarti, no, però accordami qua, che questo mi serve sul 45, guarda. Allora, guarda se la radio va meglio così. Via, la riuso, va bene. Però la radio non mi piace, guarda come sarebbe un... Sì, comprensibile, forte, ma non mi piace, non ti si avvice qua. Basta, non si addice, ne allungheremo, così meglio va senza ecco. Guarda, così non c'è ecco, tutto chiuso. Bene, va così, la radio com'è? Sta complessa, te la passa, ti la passo un po'. Complessa, cazzo di, complessa. Allora, aspetta, non devi dare tu la posizione. Se così è compressa, aspetta, così è compressa, picca, così è sciatola, così è sciatola, che cazzo, c'è un bel ingresso questa radio, cazzo, non va bene per questo barattino. Così compressa, guarda la musica, va bene, così va bene, così è, va bene per questo canale, così è, va benissimo, va bene, carico qua, va bene, già sono qua, così va bene già, non è compressa e va bene, grazie. Bene, Meda. Non preoccupare. Oh, invece all'altro. E poi io c'ho quello grande, hai capito? C'ho anche il BV131, che alla fine ne ho 3, 2, 5 ne ho amplificatori. Da 100 watt a 1 kW, cosa ne voglio? Tutti di media sono. 150, 250, 500, 50, 600 e 800. Cosa devo fare? Colazione. E alla fine già c'è un amplificatore per ogni baracchino, la salvine. Così vuole lui, come fa il tuo pensiero da quello, ogni grafico la può entrare, la cosa fa basta, ma a lì, a te gli accendi e sai che con quello fa, lui gli accenderà per sai con quello funziona, e fa cartelle, cartelle, è anche questo più figlio. E infatti dai, ma già l'hai visto qua, no, non c'è molto posto già, c'è un bel roba, è un casino. Devo per forza fare l'altro pezzo, capito? Considera che ne ha un altro Roberto che mi sta mettendo a posto, sta cambiando i condensatori e sta facendo le tarature, e quello è un BRL200 lo stesso, due valvole, un po' più piccolo di questo, ma c'è anche quello lì, appena arriva quello, cazzo ne ho sei, dove me lo metto? Dicendo, capito? Perché ne ho un bel di denari. Infatti c'è un bel di gente che vuole il BV131, ma non lo do. Non lo do perché quello è un bel lignaretto, nuovo, da 200 watt. Tu immaginate che il BV131 dà le stesse watt che dà questo. Solo che c'ha dei picchi di modulazione allucinanti. Gli stessi watt di quello con una valvola e questo con due valvole, già. Roberto l'ha modificato. Te lo stavo spiegando ieri a pranzo, gli ha cambiato praticamente il piedino della rondica d'ingresso, quindi cosa succede? Avendo più volts in ingresso, gli ha cambiato tutti i trasito, li ha messi più grandi, gli ha messo anziché una valvola da 100 watt, ne ha messo una da 200. Siamo andati, tutto a posto, e ci siamo divertiti da Dio, cazzo, ma da Dio, già deve pubblicare le foto su Facebook Massimiliano, ci siamo divertiti un bel. Che uscirà, trattate di divertirsi, molto poco divertirsi. Guardi, c'erano le persone giuste e siamo stati bene, veramente, bene c'è stato già. Certo, Nino uno di Assieri, e ce n'era di gente, c'era Walter il meccanico, con Erasmo, il cognato, e ce n'era di gente, ce n'era col baracchino e senza baracchino, guarda. C'era Giuseppe, quello di Itti, che c'era il carro Gru, ce n'era, è venuto Sandro Trighe, ce n'era, siamo stati bene, ma siamo tornati alle 7 di sera, perché poi ci abbiamo fatto tutti i giri dei Tilleri. Ma c'era anche cosa? Barra i cattori, che ti chiamano? Barra agricola? No, cosa? Daniele? Oh, Daniele era Oristano, Daniele era con l'altra ragazza Oristano. Siamo divisi perché molti non sono voluti andare, allora, visto che c'era un programma questo pranzo, ho organizzato in 448 Massimiliano e abbiamo recuperato 10-12 persone e siamo stati veramente bene. Io ho un talento qua, allora scusa, aspetta, l'ho anche dimenticato perché Massimiliano mi ha chiesto se aveva una risposta, ha detto, non so se lo vediamo, poi io non ho e se poi magari non ci andava a bocca un casino, perché un casino, perché c'era appuntamento mio, non avevo altri appuntamenti e così niente, non fa. Cioè, mi domanda non fa. Insomma, cioè, potevo anche chiamare e lo rinviavo a lunedì, martedì, ma purtroppo non potevo perché non era stato organizzato il tatuaggio dell'affare, tutto quanto. Ho sofferto, però vabbè, fa fanculo. Tanto qua. Ci rifacciamo una volta. In culo una volta un di zecchio. No, i tatuaggi già sono belli, dai. Anch'io ho sofferto in quell'attimo, poi basta, dai. Già va bene, non c'è problema. No, io faccio in alto, non sotto, non si vede neanche con le magliette a maniche corte, niente, già va bene. E adesso ne dobbiamo organizzare una un po' più avanti, al fresco, settembre, ottobre, adesso vediamo, dai. Dopo che la gente rientra dalle ferie, perché ci mancava Fabrizio che appunto doveva andare a Nuoro, a Vistano, però era incasinato anche lui e quindi gli altri si veniva un po' più vicino, però non ce l'ha fatta, capito? Però pur con calma a settembre ne organizziamo un'altra già. Già io quando distribuivo una cosa la volta non sto lì a tira e molla, capito? Non ci vuoi telefonate, a me già mi mettono appresso tutti. Benissimo, ci mancherebbero. Beh, allora vediamo, dai. Vediamo. Anche bello farlo da Luigi, se era possibile. Ma se no siamo vicini, io faccio tanta strada. Ehi, tanta strada, 10 minuti. Siamo fermati in tutti gli argueti prima, verso mezzogiorno e mezzo. Ci abbiamo preso l'aperitivo e poi uno dietro l'altro siamo arrivati, all'una e mezza eravamo a Itri, siamo seduti, alle due abbiamo iniziato a mangiare, tutti gli antipasti, le cose, ma ci ha crepato, ci ha crepato. Compreso gelato, caffè, amata caffè, di tutto via, tutto carne, cioè tutto a pesce. Cazzo mi spiego, ragazzi, ne avanzava di roba. Kappa. Mi Falchetto c'era anche Falchetto c'era, non ha mangiato niente Falchetto, cazzo, non ne aveva voglia, la massa che tiene varia. No, ma che? Ho più o meno a testa, qua. 35 euro a testa. 5 lavate in? 12. E in Oristano era così lo stesso, era un prezzo già pattuito, capito? Dei fondi di investimento che ci abbiamo, era già pattuito, 35 euro ci pagava, sì, era di là che di qua, capito? Qua abbiamo mangiato bene, di là non so neanche cosa c'era, qua abbiamo mangiato tutto a base di pesce, compreso anche i primi, ma sacri babbo, veramente. Ma ti credo, vabbè. Mi siete divertiti, dai. Un sabato bellissimo veramente, sto dicendo, dopo che abbiamo pranzato abbiamo fatto tutto il giro lì di Itri, per i posti, ci avevamo gente del posto di Itri, quindi ci ha portato, siamo stati bene, oggi ho dormito come un ghiro, e ho bevuto pochissimo, ma tutti quanti eravamo tranquilli, e io non stavo neanche guidando perché ero con Massimiliano e Galvino, quindi c'era Galvino con gli altri Massimiliano, ce n'era di gente, la gente giusta, a posto, e siamo stati bene, dai. Sono praticamente quelli che non sono voluti andare a Loristano, l'abbiamo fatta qua, dai. Siamo organizzati con Massimiliano in 448 e 412, capito? Vero Gianni? Assistere bicchieri di birra e di vino, cazzo che ne ha mangiato nella vita, ciu ciu. Cazzo, con due sono andati alla sera e poi non l'hanno portato già, i due, perché? Perché io non ero in macchina mia, ma ci vediamo, c'era un appuntamento con... ma se lo voleva c'era, capito? Ce n'era, cazzo, mi ha abbassato le spigole, cazzo. No, ma infatti riorganizziamo lì da Toro, oggi, faccio la prossima verso metà settembre, mi organizzo di nuovo e invitiamo un po' più di gente, chi vuole venire, io parlo una volta solo, no? Già hai visto, tatta, è tutto fatto. Quindi chi vuole venire, andiamo di nuovo lì. Ci sentiamo più tardi, Lucia.